A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Le stelle sventolano sulla bandiera che saluta gli ospiti di questo palazzo di Rue Joseph II al 30. Siamo a Bruxelles e questa è la sede dell'Olaf, l'organismo antifrode di cui l'Europa da subito si è dotata, perché da subito ci sono stati i furbetti comunitari. E allora da qui, dal cuore dell'Europa unita, partiamo per questa puntata di A ciascuno il suo sull'arte di truffare. Si imbroglia pure sugli aiuti ai paesi poveri e talvolta anche sui beni confiscati per mafia. Non mancano, anzi crescono, le truffe nel sostegno alla ricerca come per la formazione. Ma è soprattutto nell'agricoltura e nel lavoro che le frodi all'Europa proliferano. Cambiano i metodi, si perfezionano le tecniche, aumentano i paesi membri, ma l'Unione dunque resta per molti ancora una mucca da mungere con ogni mezzo lecito e non. Tracciano questo quadro i dati dell'Ufficio Europeo Antifrode, l'Olaf, e lo spiegano ancor di più le storie e le parole di inchieste sparse in tutta Italia, 41 quelle aperte solo nel 2010, annotano gli ispettori di Bruxelles, che assegnano al nostro paese il secondo posto nella classifica di chi imbroglia di più. Peggio di noi fa solo la Bulgaria. L'Italia conquista la poco onorevole medaglia d'argento nella classifica europea delle frodi comunitarie. A stilarla, cifre alla mano, è l'Olaf, l'organismo europeo impegnato proprio contro le frodi. Ebbene, nel 2010, nel nostro paese, sono state 41 le indagini aperte su truffe all'Unione Europea, il massimo tra i paesi dell'Eurozona. Il maggior numero dei casi riguarda fondi strutturali, spese dirette e frodi nel settore del tabacco. Ma non mancano quelle alla formazione, alla ricerca e anche agli aiuti ai paesi in via di sviluppo. Nel complesso, tra i 27 paesi dell'Unione Europea, nel 2010 si sono contate 419 indagini e operazioni in corso, più altre 14 negli stati candidati all'adesione: Croazia, Islanda, Montenegro, Macedonia e Turchia, per un totale di 433. Se la Bulgaria è prima o ultima in classifica per frodi, a seconda della prospettiva, con 81 inchieste in corso, e l'Italia, come dicevamo, è seconda, al terzo posto si trova lo stesso Belgio, sede delle istituzioni comunitarie. 37 le indagini contate dall'Olaf, ma, spiegano a Bruxelles, la cifra è sproporzionata per la presenza nel paese proprio degli uffici europei. All'agricoltura appartengono il 20% dei casi complessivi, 90 in tutta l'Unione. Ma se aumentano i casi di chi cerca di imbrogliare l'Europa, si moltiplica anche il recupero dei fondi. 67,9 i milioni rientrati nelle casse collettive nel 2010 grazie all'azione dell'Olaf, 32 milioni nel settore dei fondi strutturali, 11 nell'agricoltura e 10,6 milioni nelle spese dirette. E fino all'autunno 2011 sono stati recuperati altri 351 milioni. Frodi ci sono ancora in Italia e come in altri paesi. In Italia, devo dire, i casi rispetto agli altri paesi sono anche di numero superiore, ma anche che l'Italia è tra i paesi che più reagisce a questo. Da dicembre 2010 Giovanni Kessler è alla guida dell'Ufficio Europeo Antifrode, magistrato impegnato già sia sulle tangenti durante Mani Pulite che contro la mafia a Caltanissetta, è stato presidente del Consiglio della provincia di Trento dal 2008. Ora all'Olaf coordina la squadra che con 4 direzioni, 500 persone e 50 milioni di budget dichiara guerra alle frodi comunitarie all'insegna di ancora più controlli e più prevenzione. Proprio la situazione di crisi, ripetono tutti a Bruxelles, fa sì che neanche un euro comunitario debba ora finire nelle mani sbagliate. In realtà però gli ultimi dati indicano un aumento del numero di irregolarità in tutti i settori, con un'incidenza finanziaria che nel 2010, a quanto risulta dalle più aggiornate rilevazioni dell'Olaf, è stata di 1,8 miliardi di euro, l'1,27% del totale dei fondi stanziati l'anno prima erano stati 1,4 miliardi. In Italia la frode all'Europa è pratica diffusa dalla Lombardia alla Sicilia e i settori sono i più vari, come raccontano le indagini aperte, ma il nostro paese è anche tra i più attivi nel recupero dei fondi acquisiti illecitamente attraverso la magistratura ordinaria e ora, in modo pilota, anche attraverso la Corte dei Conti. Il recupero dei fondi resta uno degli obiettivi più urgenti dell'Olaf, che nella sua ultima relazione definisce prioritaria l'esigenza di combattere le frodi. Come se c'è un problema di recupero dei finanziamenti ottenuti illecitamente, anche perché di solito si arriva alla fase del recupero solo al termine della procedura giudiziaria. Ognuno capisce che al termine del processo penale i fondi più delle volte sono scomparsi, quando non sono addirittura scomparse tutte le società che li avevano ottenuti. Quest'anno, in grossa indagine di Milano, ha per la prima volta la Corte dei Conti italiana ha sequestrato in via preventiva beni per circa 50 milioni, questo è avvenuto nella fase preliminare del processo, in modo da garantire che se poi queste persone verranno ritenute colpevoli, come noi pensiamo che siano, il patrimonio nel frattempo illecitamente ottenuto non scompaia. 53.464.329 euro per 22 progetti. Arrivano a questa cifra i finanziamenti della Commissione europea contestati dalla Procura di Milano e da Bruxelles a 23 indagati italiani e stranieri accusati di aver messo in piedi un progettificio, per dirla con le parole di un investigatore, al solo scopo di ottenere i soldi dall'Europa, e ci riuscivano praticamente sempre, anche perché a promuovere quella che i magistrati hanno configurato come un'associazione a delinquere c'era proprio un ex consulente della Commissione, Giorgio Basaglia, già operativo esattamente nel settore dedicato alla valutazione di progetti internazionali, informazioni, business e commercio elettronico. Insieme ad un professore a contratto della Politecnico di Milano e del MIP, Alberto Savoldelli, e gli altri indagati avevano costituito un network di società, si legge nell'avviso di conclusione d'indagine, presentate fittiziamente quali partner di progetti finanziati dalla Commissione, e a loro venivano attribuite le spese con un giro di fatture false per prestazioni inesistenti ma necessarie, scrivono i PM Tiziana Siciliano e Grazia Pradella, per l'ottenimento dei finanziamenti. Qui andiamo tutti in galera, è il timore che si confidano ad un certo punto al telefono gli indagati, e sono stati proprio i sospetti di chi si ritrovava tra le mani progetti mai messi in pratica a far partire le indagini, come spiega il procuratore aggiunto che le ha coordinate, Alfredo Robledo. Nasce perché un dipendente di una delle società che sono state coinvolte nella truffa si spaventa, gli veniva richiesto di emettere fatture per progetti ai quali lui non aveva mai né lavorato né collaborato, e quindi si è reso conto dopo la prima, la seconda, la terza volta che c'era qualche cosa che non andava. Si è rivolto pertanto all'Olaf, l'Olaf l'ha girata a noi, la Procura di Milano, e così è iniziata l'indagine che è stata portata avanti da Tiziana Siciliano e da Grazia Pradella. Qual era il meccanismo che l'inchiesta ha ricostruito? Come queste persone frodavano la comunità europea? Non ci sono ancora state delle sentenze, quindi si tratta ancora di accuse che aspettano il vaglio di un giudice, ma stando alla ricostruzione della procura, qual era questo meccanismo messo in piedi dalle persone indagate? Alcune persone che lavoravano a diversi livelli di responsabilità all'interno delle strutture della comunità si sono resi conto che in relazione al finanziamento di progetti specifici non vi erano forme in realtà di controllo, nel senso che si poteva realizzare un'ipotesi progettuale magari accompagnata dalla presentazione di importanti aziende anche note a livello nazionale, aziende che poi una volta ottenuta la commessa venivano fatte scomparire, e venivano destinati questi fondi direttamente nelle società che li richiedevano, le quali preparavano progetti fantasmagorici di livello apparentemente altissimo che in realtà erano completamente inesistenti. Le società venivano messe in piedi da queste persone, facevano riferimento sempre allo stesso tipo di gruppo, le società non avevano in realtà nessun tipo di attività, sostanzialmente funzionava come una sorta di autocertificazione, quindi la mancanza assoluta del controllo ha fatto sì che sono state devolute a questo tipo di strutture e di progetti somme veramente ingenti. E questo è un passaggio chiave su cui torniamo immediatamente, ma tra le persone coinvolte ci sono anche persone che avevano anche lavorato alla Commissione Europea, e quindi questo rappresentava anche un know-how particolare. Più che altro rappresentava la certezza che non vi sarebbe stato nessun controllo sulla veridicità e sulla fattibilità dei progetti che venivano presentati. Il Baco si risolve proprio in ciò, nella certezza che controlli non ve ne sarebbero stati. A quale tipo di conclusioni voi siete arrivati? Il tipo di truffa è nuovo, nel senso che mentre le truffe note, quelle diciamo storiche, i finti corsi CE, venivano finanziati dalla comunità, ma il denaro veniva versato in qualche modo a strutture dello Stato ricevente, non so, la regione piuttosto che il ministero. Quindi il controllo era devoluto allo Stato che riceveva l'erogazione, e qui invece la comunità direttamente che finanziava e versava le somme di denaro senza nessuna mediazione. Questa indagine ha messo in luce il fatto che questo meccanismo è stato ed è, perché vi sono tuttora indagini in corso, usato anche per altri paesi dell'Europa, quindi è una truffa a vasto raggio. L'Italia dunque fa scuola in campo di frodi, ma stavolta anche nella caccia a chi imbroglia. Una schiera folta e variegata che, anche quando pensa alla solidarietà, punta in realtà al proprio tornaconto. A ciascuno il suo. Mense di un'azienda partecipata da comune e regione, a Padova corsi di formazione indetti dalla Compagnia delle Opere, ma sempre finanziati da Bruxelles attraverso regione e Ministero del Lavoro. A Bari una delle truffe da 6 milioni riguarda i fondi per le aree svantaggiate e mette sotto accusa un'azienda siderurgica. A Ragusa ci sono i fondi agricoli POR sullo sfondo dell'inchiesta che ha portato in carcere un deputato regionale, Minardo, accusato di gestione privatistica, scrivono gli inquirenti dei finanziamenti. E poi ancora ci sono i finti corsi per disoccupati scoperti in Campania o i terreni virtualmente coltivati in Sicilia ma concretamente finanziati a Bruxelles. E nel palermitano un'indagine della Guardia di Finanza contesta l'ipotesi di due truffe da 2 milioni anche per la gestione di beni tolti alla mafia. Da sud a nord dunque è comune e diffuso il tentativo di ottenere illecitamente soldi dall'Europa, soldi veri per progetti belli il più delle volte solo sulla carta. E cosa c'è di più nobile degli aiuti ai paesi poveri, casomai mandando attrezzature per gli ospedali? Invece è di 3 milioni di euro il danno contestato dalla Procura di Roma per i finanziamenti per misuratori di pressione, bilance, generatori elettrici per gli ospedali della Nigeria. A coordinare l'inchiesta il procuratore aggiunto Nello Rossi. Sono state accertate delle truffe ai danni della comunità europea e un'ipotesi di corruzione di funzionari di uno Stato estero. Le vittime sono stati da un lato i cittadini di questi paesi, Marocco, Russia, Nigeria, che hanno ricevuto aiuti di qualità inferiore a quella che invece l'Unione Europea aveva stabilito, e i contribuenti europei, che sono quelli che sorreggono, che sostengono economicamente il peso. Nigeria e Bruxelles, in mezzo c'era una società di broker messa sotto accusa, come spiega il colonnello dei carabinieri Maurizio Dellisanti. L'indagine ha riguardato una società di broker che dal 2003 al 2007 ha tentato di aggiudicarsi queste gare internazionali che prevedevano appunto la destinazione, in particolare test diagnostici per analisi, destinati appunto ai soggetti bisognosi, in particolare della Nigeria. Più soldi, più truffe. Il vecchio adagio di seguire le monete per scoprire tutto quello che si cela dietro vale anche per i finanziamenti europei. Così, ultimamente, le indagini contro le frodi comunitarie conducono sempre più spesso verso i paesi in via di sviluppo, complice anche una corruzione lì molto diffusa. Ma c'è anche una nuova e più insidiosa tipologia battuta da multinazionali anche italiane: provare a farsi finanziare due volte gli stessi progetti, come racconta da Bruxelles Giovanni Kessler, che è il direttore dell'Olaf. C'è la possibilità per grandi compagnie, grandi società, abbiamo notato recentemente, di fare una specie di doppio gioco di ottenere per lo stesso progetto finanziamenti sia dalle Nazioni Unite, ad esempio, o da altre organizzazioni internazionali, sia dall'Unione Europea, cioè di farsi pagare due volte o più volte la stessa spesa. Parla anche di gruppi e di multinazionali italiane? Anche, certamente sì. Ma non solo, si parlava una volta soprattutto di frodi nel campo dell'agricoltura. Ora c'è una maggiore diversificazione degli investimenti, c'è un enorme incremento dei fondi spesi per la ricerca ed ecco allora che cominciano a spuntare le truffe anche nella ricerca. Insomma, il motivo è che dove si spende di più ci sono più truffe inevitabilmente. Quello degli aiuti ai paesi esteri negli anni passati in Italia fu anche all'origine di alcune grandi inchieste, alcuni grandi scandali, sì, anche. Sì. Su questo fronte come siamo messi? Non siamo a quel livello. Ci sono delle frodi, ma non sono frodi sistematiche come quelle arcobaleno. Sì, anche altre precedenti. Ci sono, almeno da quello che vediamo noi, delle frodi di sistema, ci sono delle frodi soprattutto a livello locale quando si tratta di lavorare in paesi anche difficili, pensiamo all'Iraq, pensiamo all'Afghanistan. Questo ovviamente si presta maggiormente alla possibilità di frodi. A scorrere da Padova a Ragusa gli atti delle varie inchieste sulle frodi comunitarie, una costante sembra esserci: una carenza di effettivi controlli, che è stata la leva usata anche dagli indagati dell'inchiesta milanese sui finanziamenti alla ricerca. E ora che Bruxelles, anche per la crisi incombente, dichiara ancora di più guerra agli imbrogli, l'Olaf ha sul proprio tavolo una proposta già approvata dalla Commissione a firma di due magistrati meneghini, Francesco Cagliani e Alfredo Robledo. Si tratta di creare un canale privilegiato tra la Procura di Milano e l'Olaf. Naturalmente questo è un esperimento, consiste nell'avere un collegamento informatico diretto ed immediato con l'intesa di scambiarsi all'inizio proprio di una qualunque indagine, sia amministrativa dell'Olaf che penale nostra, le prime informazioni immediatamente. Dovrebbe consentire di stringere i tempi delle indagini e fare cose molto più velocemente, in maniera molto più incisiva. La proposta che è stata approvata dalla Commissione Europea è attualmente ancora al vaglio l'attuale direzione dell'Olaf. Per il via libera manca la firma del direttore dell'Olaf, l'organismo appunto antifrode di cui praticamente da subito, dalla sua nascita, l'Europa si è dotata. E in fondo, ad andare indietro fino alla notte dei tempi, è proprio da un imbroglio che è nata la stessa Europa e col suo mito. Chiudiamo questa puntata di A ciascuno il suo nella voce di Giorgio Geranò, professore di greco all'Università di Trento, che lo ripercorre nel suo ultimo libro Olympos. Anche dal punto di vista mitologico, l'Europa è un continente fondato sulla frode o quantomeno sull'inganno, ammesso che sia vera l'etimologia a cui credevano già gli antichi, che collega il nome del continente al nome di una fanciulla, di una principessa mitologica, di cui un giorno si innamorò il padre degli dei, Zeus in persona. Questa fanciulla pascolava le sue mandrie su una spiaggia della Fenicia, Zeus la vide e, siccome era appunto il signore delle metamorfosi, si inventò un inganno, si trasformò in un toro meraviglioso, scintillante, che incantò la fanciulla e con uno scarto improvviso Zeus la prese in groppa, fuggì attraverso il mare verso appunto quel continente che di lì in poi si sarebbe chiamato Europa e si fermò nell'isola di Creta, dove si unì alla fanciulla generando dei figli illustri tra i quali il famoso Minosse. Per ritrovare Europa si mossero anche tutti i suoi fratelli, tra i quali il famoso Cadmo, che nel viaggio di ricerca della sorella perduta fondò numerosissime città, e anche per questo si può dire che alla storia di Europa si leghi un po' la nascita del continente Europa. Un grande intellettuale federalista ed europeista, che era Denis de Rougemont, fonderà una rivista che chiamerà appunto Cadmos, dal nome del fratello di Europa, e dirà che nella ricerca che Cadmos fa di Europa c'era già in nuce il senso della fondazione di un'unità europea. Certo, c'è qui un dato buffo, cioè il fatto che l'Europa ha le sue origini in Asia, perché la principessa veniva appunto dalla Fenicia, odierno Libano e Palestina. Già gli antichi un po' erano disturbati da questo fatto, già Erodoto, il padre della storia, ne parla. I greci antichi erano in dubbio, i greci moderni ci hanno creduto e hanno messo l'immagine di Europa in groppa al toro divino sulla loro moneta da 2 euro. Ma a questo punto possiamo dire che la principessa Europa non ha portato molto fortuna ai greci in questo caso.